24 mattino. Ma tu ti sei mai fatto una canna di marijuana? Sai perché te lo domando? Sì, perché io, prego, facendo questo lavoro qui, io ho sempre avuto l'imbarazzo, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Sarebbe bello che io dicessi io invece sì, ti giuro, non me la sono mai fatta. Avevo chiesto la stessa cosa io tanto tempo fa a Fini, ma tanti anni fa, e lui mi disse io sì, lui. E il nodo dopo tanti anni è ancora quella domanda, la domanda classica che si faceva ai politici americani: tu ti sei fatto una canna? Ricordate la risposta evocata di Bill Clinton, ad Alberto Castelvecchi: sì, ma non ho aspirato. Oggi questo siparietto era fra Fazio e Jovanotti, e noi entriamo dentro le pagine dei giornali anche in questo giorno di festa trovando tantissime notizie. Allora cominciamo, la Gazzetta dello Sport, la prima che ho fra le mani, mostra una foto di Icardi con un tatuaggio sul petto, un leone con due cuccioli, e ci sono i nomi di Francesca e Isabella, le due figlie. Juve, a noi due, il ruggito di Icardi carica l'Inter. Libero, il nemico è ancora il Duce, la sinistra elegge Mussolini uomo dell'anno, e poi una foto della buonanima con la divisa imperiale e il fregio e le mostrine di imperatore. In mancanza di argomenti attuali e idee sensate, i compagni inventano un allarme fascismo per riportare alle urne il loro popolo. 12 fessi di Forza Nuova li aiutano, ma le vere emergenze in Italia sono economia e immigrazione. Renato Farina. E il maligno conquista 3 milioni di italiani in TV, fallisce il boicottaggio al cantante Marilyn Manson, ospite di Bonolis. Questo è il taglio curioso, mi interessava segnalarvelo. I boicottaggi non funzionano mai. Il Messaggero, Renzi in panne. Qui c'è una diversa lettura del Messaggero, del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore. Renzi in panne e spinta di Prodi, cioè sarebbe una spinta. Il professore, di cui abbiamo sentito l'audio, sprona il PD dopo l'addio di Alfano e Pisapia. Il processo va avanti per il bene del paese. Il segretario dei Dem, saremo in campo con liste di centro e di sinistra. Alleanza progressista sull'orlo della scissione, il partito di Alfano. E poi la foto, Gerusalemme, il ritorno dell'intifada, razzi su Israele, scontri nei territori. Il Foglio, oltre Etruria la fascinazione della sinistra per le banche si è sempre trasformata in una guerra fra compagni, storia di una sindrome di Francesco Cundari. E poi un fondo non firmato, la mappa che spiega il futuro del PD, uno studio riservato del Nazareno indica da dove parte la rincorsa di Renzi. Leggerò qualche frammento per sentire una voce renziana in questo scenario di grande, come dire, difficoltà registrata dai giornali di oggi. Il Foglio ci dà un'altra campana. Vai avanti Becchino, c'è un fotomontaggio con Renzi di fronte a una lapide, ci sono le foto di Bersani, di Prodi, di Letta, di Alfano e di Pisapia. Renzi ha seppellito tutti i leader della sinistra, e il fondo di Belpietro ovviamente fa satira su questa cosa, si può dire satira? Sì, in questo caso sì. La foto piccola della Verità, Boschi incandidabile nella sua Toscana, scappa ad Ercolano, incominciano a uscire i nomi su dove ci si candida nei collegi. La foto di prima pagina di Repubblica, vignetta sublime di Altan, c'è un uomo con una maschera e il suo saluto con la mano tesa, Heil Mortacci. E il retroscena, Renzi senza Pisapia, ve lo annunciavo, forse è meglio così. E il governo sui gruppi nazi, sospensione d'urgenza. E poi una foto con un vecchio signore arabo che abbassa la canna del fucile a un soldato, la protesta alle porte di Damasco, la nuova intifada per Gerusalemme, Trump scatena la rivolta palestinese a Gaza in Cisgiordania. Pena di morte, una foto nera listata al lutto, Marcello Dell'Utri con gli occhi chiusi, continua la lunga battaglia del tempo in favore dell'ex uomo di Publitalia, malato in cella, tante interviste alla moglie che parla della sua malattia. La Roma blinda Di Francesco, piace molto in Premier, il club giallorosso lo blocca. E poi bentornato Felipe, in Europa League, primo KO per la Lazio con lo Zulte, perde 3-2, ma la bella notizia è il ritorno in campo del brasiliano Felipe, ovviamente lunedì sorteggi, rischi per Inzaghi. Avvenire, in terra dei fuochi è ancora emergenza, coltivazioni sotto controllo ma record di tumori. Sempre Avvenire ha questa capacità di cercare una notizia che gli altri non raccontano. Un'indagine dell'Istituto di Zooprofilassi parla di 33 ettari contaminati su 50.000, pensate, 33 su 50.000. Restano i danni ambientali e per la salute. E poi il fondo di Leonardo Becchetti non è un'Italia per giovani. Il Fatto Quotidiano, scandali di sesso e potere. Il giudice e il sindaco, uno decadrà dal Consiglio di Stato, l'altro resta, sono due storie e ci sono nuovi SMS, sapete che questa storia l'ho seguita, che inguaiano il sindaco Palazzi. Un paio ve li leggerò e... ovviamente invece minigonne, trucco e fidanzati, scandalo al Consiglio di Stato, secondo il Fatto si va verso la destituzione del consigliere Bellomo, gli strani criteri di selezione della sua scuola per futuri magistrati. Notizie tutte diverse, diciamo. La Stampa, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, così il Cremlino interferì nel referendum italiano. L'accusa di Joe Biden, ve lo ricordate, era il vice di Obama. Mosca sostiene Lega e Movimento 5 Stelle. E nel centrodestra, notizia sempre della Stampa, Berlusconi pensa a Calenda Premier per le larghe intese. Beh, Berlusconi pensa, ma non è che gli altri sono d'accordo. Quando spesso lui lancia qualcuno, vedi come il generale Gallitelli. E le illusioni dei partitini svaniscono, il fondo di Lucia Annunziata, c'è una foto di prima, le scuole al freddo, la denuncia degli studenti, una su tre non è a norma dal punto di vista del riscaldamento, pensate, è un focus di due pagine, pagina 8 e 9 della Stampa, e uno su tre al freddo in questo inverno è veramente troppo, eh? Il Giornale, legge di bilancio, il fisco che verrà, rinvio sulle partite IVA, ma noi già avevamo dato ieri questa notizia con il Sole, stretta sui contanti, cosa cambia? L'Unione Europea bacchetta l'Italia, non paga le imprese, e di questo oggi parliamo. E poi il vero fascismo, giustizia persecutoria, il fondo di Sallusti in difesa di ovviamente l'ex fondatore di Forza Italia, dell'Utri. Il Sole 24 Ore, siamo arrivati a questa apertura, doppia apertura su due notizie, entrambi cruciali, che vi segnalo, diciamo, prioritariamente qui nella rassegna dei titoli. Basilea 4, stretta soft, leggera, sui rischi delle banche, Draghi, una pietra miliare che rende il quadro più robusto, alla fine è lo scontro ha partorito, speriamo, un compromesso per le nuove regole sui modelli interni e capitale, nessun accenno ai titoli di Stato. È ovviamente il focus di pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, un accordo migliore delle premesse è l'editoriale di Alessandro Graziani che ci spiega cosa è accaduto, come, perché, con quali conseguenze. Vi dicevo che ci sono notizie importanti, perché una riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione, è una notizia che c'è anche su altri giornali ma con più evidenza sul Sole Romano, e trovati a pagina 5, pagamenti della pubblica amministrazione, bocciatura dell'Unione Europea, in Italia ritardi sistematici e ne sappiamo qualcosa. Roma deferita alla Corte di Giustizia, Lance in edilizia, dilazioni fino a 5 mesi. 5 mesi si fa fallire un'impresa, signori, quando una commessa è importante. E infine l'ultima notizia che poi vi leggerò, mancano, perché il dibattito che abbiamo fatto ieri, mancano 60.000 tecnici per lanciare lavoro 4.0, sono posti di lavoro specializzati e mancano all'appello, non rispondono all'appello. finanza e mercati, stop degli Stati Uniti al future Bitcoin, cioè il no delle grandi banche, ma la moneta sfonda comunque i 19.000 dollari. Operatori in allarme per i rischi del sistema finanziario, caos, prezzi sulle piattaforme. Come vedete c'è ciccia oggi, c'è ciccia. 800240024, quando arriverà Oscar per i cani e per i gatti, ma voi preparatevi. E poi 349-238-6666 per i vostri messaggi subito qui per aiutarci nella navigazione. Allora, vi leggo qualche messaggio. Buonasera, buongiorno. Volevo dirvi che Mario Giordano è il più brillante ospite che hai. Lo ascolto sempre con piacere. Lino d'Avellino. Qualcuno non vuole ascoltarci per Mario, qualcuno ci ascolta per Mario. È la bellezza di questa trasmissione. Ero lì a Gerusalemme, è una balla. Si può andare ovunque anche con il taxi. Beh, provaci la sera, vediamo. Non sempre, dipende anche dal tassista, da quanto lo paghi. Le peggiori fake news sono quelle dove si dà una cosa per scontata, vero? E infatti noi qui a 24 mattino cerchiamo sempre di non dare mai nulla per scontato. Ci fermiamo per il meteo e torniamo per la seconda parte della rassegna stampa. Curiamolo, leviamogli il metadone. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Quattro mattino. E sta oggi è festa, vorrei. Qui Luca Telese, 7:32 minuti. Qui la banda di pazzi che si sono raccolti anche la mattina. Qui Luca Sappino, Fulvio Benelli, Valerio Rocchetti. Valerio Rocchetti è un pazzo. Alessandro Chiappini, Rachele Caracciolo e Lorenzo Rotella. Qui questa pattuglia di disperati che popola una piazza nel buio di Roma dormiente. Qui noi vogliamo dirvi che vorremmo scherzare e far parlare i Rolling Stones, ma la storia anche oggi va avanti e anche oggi bisogna raccontarla. E allora vi dicevo della questione di Gerusalemme. Gerusalemme è un problema e soprattutto è raccontato in modo molto diverso. Allora Giordano Stabile sulla Stampa ci racconta che cosa succede. Rivolta palestinese a Gerusalemme, sognando, pensate, Erdogan. Gli Shabab, i ragazzi, tornano indietro con i volti sbiancati dai lacrimogeni, respirano a fatica, prendono fiato nelle strade laterali più strette che salgono verso la città vecchia. L'ampio viale che da Betlemme porta al campo profughi di Ayada è una trincea mobile. Un blocco, 400-500 manifestanti che avanza per cercare di colpire con i sassi i soldati e si ritira quando dall'altra parte arrivano i candelotti. I ragazzi, fra virgolette, hanno creato una barriera, copertoni in fiamme. Fumo nero, denso, copre la vista, lo schieramento dei militari e la polizia di frontiera non vede, sono piazzati più in alto dove il viale comincia a salire e controllano la situazione senza forzare la mano. Di blocco si retrocede, di corsa si sentono degli spari. Tirano, sembra, proiettili di gomma, poco dopo l'ambulanza, le sirene, è un'altra storia. E allora la rivolta nei territori occupati e l'invocazione di quel leader, l'unico che ci difende, Erdogan, la foto di un gesto rituale, si brucia, purtroppo da quelle parti si brucia la bandiera americana. Hamas, e questo è l'altro scenario da Gaza, cavalca l'onda e lancia la nuova intifada, siamo pronti a colpire. È una storia triste, è una storia antica, forse era importante non soffiare sul fuoco, ma ormai è troppo tardi. Questo è il mio pensiero, quello, il racconto che fa la Stampa per chi vuole leggere questo lungo reportage, Giordano Stabile da Gerusalemme. Allora, vi dicevo del caso Dell'Utri, malato di cancro e cardiopatico, Dell'Utri resta in cella. E il condannato a morte, così lo definisce il giornale Zurlo su pagina 12, rinuncia a cibo e cure. Cosa accadrà? Non lo so, ma questa stessa notizia, vi dicevo, vi segnalavo, è la prima pagina del Tempo, dove Gianmarco Chiocci chiede con un fondo Presidente Mattarella gli dia la grazia. È possibile? Anche qui la notizia con molta enfasi, un'apertura di pagina, pagina 4: non mi resta che morire di fame, la protesta che Dell'Utri vuole animare da Rebibbia. Allora, queste le notizie, diciamo, più laterali. Poi c'è una tremenda storia di cronaca, ed è la storia di un ragazzo che uccide i suoi genitori, ma c'è anche la notizia di una madre che uccide i figli. Di nuovo il lume della follia che si accende nel cervello di una donna che arriva a soffocare una bambina e poi in macchina a sgozzare suo figlio. D'altra parte, questa vicenda, e sto leggendo da Repubblica, fa il paio con quella, sempre da Repubblica, Ilaria Carra, da Milano, voleva sterminare la famiglia col taglio, erano impuri e li ho uccisi. Preso il killer e il nipote delle tre vittime, in casa aveva 6 flaconi di veleno. A incastrarlo, le prove sul telefono e sul laptop. 8 in tutti gli intossicati. Però c'è il retroscena di Massimo Pisa. Dietro la follia c'è qualcuno che accende questo seme, i muscoli e la setta, tutte le ossessioni di Mattia il solitario. Dal rifiuto di guidare alle manie per il PC, ma in paese nessuno lo sospettava. Ci ha detto che segue una religione di cui non ha dato dettagli, spiega la madre Carabinieri. Mi ha fatto sentire, pezzo di Massimo Pisa, pagina 25, Repubblica, anche un audio di una voce metallica, faceva paura. Con lui ho conservato un buon rapporto, mette a verbale la nonna dall'ospedale, ma ci vediamo poco. Da quando sono ricoverata non è venuta a trovarmi mai. E questo è veramente la storia che la cronaca ci consegna, con uno spaccato tremendo della famiglia italiana, genitori che uccidono i figli che meditano addirittura lo sterminio di un'intera famiglia. E, andiamo alla politica, Corriere della Sera, perché qui c'è ovviamente il cuore di quello che è accaduto oggi. Vi dicevo che il Corriere: Renzi più solo non mi fermo, i leader PD l'alleanza si farà. Allora, Prodi, da Giuliano nessuna defezione, quindi una difesa di Pisapia, pagina 2 del Corriere della Sera, il pezzo di Monica Guerzoni. E vi leggo lo schema di Fassino e anche il suo, cioè quello di Renzi. C'è un virgolettato di Renzi: noi andremo con una lista di centro anche se Alfano non sarà candidato, e con una lista di sinistra anche se Pisapia non è candidato, e spero anche in un accordo con la Bonino. La lista di sinistra sarà guidata da Massimo Zedda e animata da Franco Monaco e Giulio Sant'Agata, sono due prodiani di lungo corso. Quanto alla sinistra di Grasso, a quinta colonna su Rete 4, il segretario dei PD dice no alle ammucchiate stile Salvini e Berlusconi. Alla fine, se non mi alleo con D'Alema, la gente lo capisce. Dopo tutto quello che mi ha detto dietro e davanti, e c'è anche il tempo per difendere Angelino dalle critiche. Alfano è stato accusato di essere un poltronaro, ma la sua scelta merita rispetto. Allora, il retroscena di Massimo Franco sul Corriere della Sera: Pisapia avvertì Gentiloni, questa legge elettorale ci porta al massacro, quella sarebbe stata la rottura. Su Repubblica parla Pisapia. Parla Pisapia e dice la sua verità. Non c'era possibilità, ho provato a unire le due sinistre sorde, ora finirà male, come in Sicilia. Quindi uno scenario molto pessimista. E poi c'è il personaggio, un retroscena, diciamo un colloquio forse fra Claudio Tito, non è in forma di intervista, su Repubblica, pagina 13, con Renzi. Meglio così, Pisapia ci aveva già fatto perdere 6 punti. Da quando è iniziato questo balletto sulla coalizione, racconta Renzi, il PD ha perso quasi 6 punti nei sondaggi. I nostri elettori non le vogliono più queste cose, vogliono chiarezza, la confusione non premia. Il giorno dopo lo strappo di Pisapia, Matteo Renzi, scrive Claudio Tito, si mostra più sollevato che dispiaciuto. La trattativa, prima con MDP e poi col campo progressista dell'ex sindaco di Milano, è stata troppo lunga. La razionalità di un negoziato, che dentro il suo partito viene tuttora considerato indispensabile, è stata costantemente fronteggiata dalla caratterialità del segretario dei Dem. Quindi, in qualche proverbio popolare si diceva la volpe e l'uva. Ma c'è anche Angelino che parla, Angelino Alfano, per chi vuole, sul Corriere della Sera. La sua area rischia di spaccarsi, gli dice Francesco Verderami, pagina 5 del Corriere. Il suo sembra un partito mai nato. Il rischio di scissione è alto, non posso negarlo. È in atto una discussione fra due coerenze. Una rimanda alla nostra storia di moderati del centrodestra, l'altra al nostro presente, all'azione di governo, alle riforme liberali che abbiamo varato in questi 5 anni. Da una parte c'è Renzi e non ci sono più i comunisti, dall'altra ci sono invece i populisti, ma il partito è vivo. Talmente vivo che viene cercato e tentato. Che scenario, ragazzi, che lotta senza quartiere. E oggi ci sono anche sul Corriere Lino Martirano, cronista molto attento al dettaglio, i ritocchi ai collegi. Rignano va con Firenze, fra le modifiche di PD, Forza Italia e Lega, quella sul paese della famiglia Renzi, ma il suo sindaco si schiera con Liberi Uguali, cioè con Grasso. E il colloquio fra Monica Guerzoni e Bersani è una specie di passaggio del testimone. Bersani dice, il Corriere pagina 6, Grasso funziona più di me, io ho tirato un carretto, ora spingerò. Bersani, mi sono sentito più leggero, senza di lui sarebbe toccato a me. Allora vi rendete conto che c'è molto e cose molto importanti, però io voglio passare alla mitragliata. No, scusa! All'economia! Vai! Siamo proprio fusi oggi. E Gordon? Fammi sentire Gordon, santo Dio! Senza Gordon io non parlo! La verità, non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Ecco, ma vi rendete conto che ancora stiamo parlando dei pagamenti della pubblica amministrazione? Ecco. Oggi merita di essere letto quasi in integrale il racconto che il Sole fa di questa vicenda. Non sono bastati decreti sblocca debiti e monitoraggi. Ritardi record al Comune di Napoli, 335 giorni di ritardo. Stiamo parlando di ritardo nei pagamenti. E allora Beda Romano e Gianni Trovati a quattro mani: non è bastata la pioggia di decreti sblocca debiti conditi da una trentina di miliardi di prestiti a regioni ed enti locali, in gran parte da restituire in 30 anni, e non sono bastati i monitoraggi più o meno in tempo reale delle fatture della pubblica amministrazione, con cui i governi hanno provato a convincere la Commissione Europea a non deferire l'Italia davanti alla Corte per i pagamenti lumaca che schiacciano i fornitori degli enti pubblici. La Commissione ha invece annunciato ieri di aver rinviato il governo italiano davanti alla Corte di Giustizia per la violazione della direttiva che stabilisce il termine dei 30 giorni, elevati a 60, ma solo in casi eccezionali, per il pagamento di beni e servizi da parte della mano pubblica. A più di 3 anni dall'avvio della procedura di infrazione, nota l'esecutivo comunitario, le amministrazioni italiane necessitano ancora in media di 100 giorni per saldare le fatture, con picchi che possono essere molto più superiori. Qui abbiamo visto il caso di Napoli. L'esecutivo comunitario ha preso atto degli sforzi della pubblica amministrazione nel pagare le fatture, che però non sono bastati. Sforzi rivendicati ieri dal governo, fonti dell'economia sottolineano i progressi considerevoli e tangibili ottenuti dall'Italia. Però resta il problema che non ci allineiamo all'Europa. E allora qui posso dire una cosa molto chiara: bisogna pagare. Se c'è un'infrazione, fa bene, perché per 330 giorni di mancato pagamento su una grossa commessa, su una fornitura, su una partita di autobus, sulla refezione, un'azienda fallisce, e questa è una vergogna. Strade. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. passenger, siamo tutti passeggeri nel viaggio, nella vita, nel tempo, passeggeri nella nostra storia, passeggeri nella società, passeggeri nella famiglia. E tutto questo per dirvi, mentre molti di voi forse oggi si godono la giornata di festa e ci ascoltano fra le lenzuola, che arriva il Salva Veronica. Ce lo racconta il Corriere della Sera a pagina 8. Si tratterebbe di una norma sui divorzi che renderebbe, tutelerebbe diciamo di più la figura del coniuge, e questo non vi sfugge, andrebbe più o meno in contrasto con quanto stanno scrivendo nel diritto le sentenze della Corte Costituzionale. Quindi è battaglia fra Camera Legislativa e Corte Costituzionale, e gli azzurri, cioè Forza Italia, insorgono contro questi emendamenti al testo sulle disparità fra gli ex, dicendo è un emendamento salva Veronica. E allora ve lo leggo, perché qui la politica va in cortocircuito con la società. Il PD propone un salva Veronica, è una norma sull'assegno divorzile che sembra cucita addosso a Silvio Berlusconi e a sua moglie. Non è vero. Non siamo come loro, l'abbiamo scritta prima della sentenza che ha tolto gli alimenti all'Alario e non dovrebbe avere alcun effetto in questa storia. Sto leggendo il pezzo di Virginia Piccolillo sul Corriere a pagina 8. Nell'arena politica preelettorale ieri lo scontro si è acceso sul divorzio di casa Berlusconi, con l'ex presidente forzista della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Paolo Sisto, all'attacco di una norma che spiega, riporta in vita il principio della non eccessiva disparità nelle condizioni di vita dei coniugi. Guarda caso, proprio quello che può mettere in gioco la sentenza di Milano contro lo spropositato assegno finora corrisposto da Berlusconi alla sua ex, e con la presidente PD della Commissione Giustizia Donatella Ferranti, che invece assicura: Berlusconi non c'entra nulla con il principio, è tratto dalla disciplina francese e condiviso anche da suoi parlamentari. Chi ha sacrificato per dovere coniugale o per assistere i figli la propria prospettiva professionale ha diritto a una compensazione. Cosa c'entra Veronica Lario? E insomma, vedete che si arriva sempre su questo terreno molto delicato, molto scivoloso, molto difficile. Qui è complicato capire se la politica è viziata, diciamo così, da un conflitto di interessi, cioè se i PD vogliono punire Berlusconi per Veronica Lario, o se i Forza Italia difendono le sentenze della Corte Costituzionale perché c'è di mezzo il divorzio della moglie del capo. Quello che è sicuro è che si sta decidendo sulle nostre vite. Allora forse il principio del cosiddetto status garantito è un principio che ha messo nei guai molti ex coniugi. Allora voglio andare sul Giornale a pagina 21 per raccontarvi un'altra storia. Questa è interessante, è una storia buffa. È un signore, si chiama Giorgio D'Ambrosio. E pensate che fa il ricercatore di whisky antico, il cercatore di liquori che fa parlare le bottiglie, il ritratto di Marco Zucchetti su questa strana professione a metà fra il critico d'arte e l'ennologo. Giorgio D'Ambrosio da 50 anni seleziona e colleziona scotch, in cantina ne ha migliaia, ognuna con la sua storia. Bene, vi racconto tre di queste bottiglie per dirvi quanto può valere. Se ce l'avete in cantina, fatelo subito valutare. Un Mortlach, 70 anni, con la sua bellissima ampolla con tappo acciaio, sembra una scultura, è stato distillato nel 38, ne sono state prodotte 54 bottiglie, all'asta vale $20,000 per una bottiglia di whisky. Signori, è tutto denaro. Allora, sulla verità. La bocciatura va annullata se il padre non era a conoscenza dell'andamento scolastico del figlio. Lo ha sancito il TAR del Friuli. Il padre, infatti, aveva impugnato la non ammissione in terza media del figlio. Qui però voglio dirvi una cosa, signori, nel tempo del registro elettronico, come fai a dimostrare che non sapevi come andava tuo figlio? Non ti sei mai affacciato a scuola? Non hai mai parlato con un insegnante? Io, a meno che non ci sia sotto una clamorosa ingiustizia, penso che non esista il diritto a non sapere, e lo dico da genitore che soffre quando vede pagelle, voti, registri elettronici, tutta questa tecnologia che ci insegue e ci rende connessi, soprattutto sui nostri figli. Il Tempo. Editoriale di Veneziani, censurano da Facebook, censurato da Facebook, l'autore oggi grida alla censura e alla dittatura del politicamente corretto. Perché? Perché Veneziani, come sapete, è un opinionista irrequieto, controcorrente, e oggi racconta che ha avuto questo problema. Storia di un editoriale, le censure ideologiche, scrive Veneziani, hanno fatto un altro passo avanti. Non bastava la manipolazione, la falsificazione mediatica in grande stile di TD e giornali, l'omertà e il silenzio sui fatti del passato e del presente, le leggi liberticide approvate o in via di approvazione al Parlamento. Insomma, ha provato a mettere un suo editoriale sulla sua pagina Facebook ed è stato, pensate, oscurato sulla sua stessa pagina. Ma allora vi chiederete, e di che cosa parlava? Era un fondo che criticava l'intolleranza a senso unico che si respira in Italia ed era un fondo intitolato Il pericolo fascista. Qualunque fosse l'opinione, Veneziani è stato censurato sulla sua pagina. Beh, è un po' preoccupante, no? Locri, Calabria, signori, il comune con più assenze di dipendenti comunali. 99.4 giorni l'anno. Secondo la Maddalena in Sardegna, 87.3 giorni l'anno. Terzo Condofuri, sempre in Calabria, 86.1 assenze l'anno. La media italiana delle assenze è 46.1 giorni. Si contano ferie, malattie, 104 congedi e permessi. Però, signori, a Locri, se uno va in comune, dovrebbe trovare un deserto, perché 99 assenze l'anno, beh, sono un po' troppine, no? Lo possiamo dire. Allora ci fermiamo ancora per il giornale radio e vi salutiamo con questa bellissima musica, preparandoci fra poco allo scontro finale, i cani e i gatti, la battaglia delle opinioni. 800 24 0024 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. E una domanda: ma ti sembra che tutta la mole di notizie di stamattina siano utili per chi non ha niente in tasca e non arriva a fine mese con 300-400 euro? Signori, le notizie sono utili a tutto e a niente, è l'uso che ne fate che cambia.